Italia in controluce. Benvenuti all'ultimo appuntamento di questa settimana di Italia in controluce. Vi parla Daniele Biacchessi. E l'alluvione di Genova è il cuore centrale della puntata di Scuola in controluce con Piero Aceci. Scuola in controluce. Si cerca di tornare lentamente alla normalità a Genova dopo l'alluvione di venerdì scorso, e la normalità passa sempre anche dalla riapertura delle scuole e il ritorno dei ragazzi sui banchi, scuole che hanno avuto un ruolo centrale in questa vicenda. Erano appena uscite da scuola la donna albanese e le sue due bambine morte nell'androne di via Ferreggiano. Era andata a riprendere il fratello a scuola, la ragazza travolta dall'acqua mentre era in motorino. E poi quel rimpallo di accuse con il sindaco Marta Vincenzi. Aveva avvertito le scuole di non far uscire i ragazzi, ha detto. Siamo stati avvertiti con una mail alle 15.45, quando era troppo tardi e morti c'erano già state, rispondono i presidi. Magda Lodi è la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII. Guardi, la mail ce l'abbiamo qua, io ce l'ho sotto gli occhi, sembra incredibile, ma è così. Qui abbiamo alle 15.35 una mail, data di invio venerdì 4 novembre 2011, 15.35, emergenza alluvione. Quindi questa è stata inviata, credo, nell'intento di dire: se ci sono ancora i bambini a scuola, trateneteli. Però in realtà non c'è scritto se ci sono i bambini a scuola, qui c'è scritto: a seguito di esondazioni si segnala che alcuni cittadini potrebbero essere impossibilitati a raggiungere scuole e abitazioni. Raccomandiamo pertanto di prevedere la possibilità di custodire gli alunni anche oltre il normale orario scolastico. I vostri bambini a che ora sarebbero usciti? Alle 16.30 perché fanno il tempo pieno o prima? Una grossa parte alle 12.20, poi c'è una parte che... Quindi per questi questa mail non avrebbe avuto alcun significato? No, per quelli delle 12.20 non ha avuto significato, perché in realtà noi abbiamo regolarmente suonato la campana e fatto uscire, anche perché non c'era assolutamente nessun tipo di allerta. Quelli del pomeriggio sono rimasti, ed è per quello che le dico che noi fino alle 7 di sera abbiamo trattenuto i bambini, fino a che, cioè, la protezione civile non ha portato via quelli che erano rimasti e che non erano stati più presi dai loro genitori, perché durante il pomeriggio comunque molti genitori preoccupatissimi perché avevano i figli a scuola e non li avevano più visti, non c'erano contatti telefonici, non ha funzionato più nemmeno la mail. Quindi io questa mail l'ho vista dall'Istituto Vittorio Emanuele II, nel quale sono titolare, e dove c'è stata un'evacuazione alla mattina perché c'era una cascata d'acqua dal tetto. Quindi praticamente questa cosa è stata gestita comunque, no? Dalla scuola totalmente e in modo, direi, estremamente corretto, perché i bambini sono rimasti a scuola fino a che i genitori non li hanno presi e portati, ed alcuni che non sono stati presi e portati a casa dai genitori sono andati con la protezione civile. Okay, è vero, okay, che la bambina di 8 anni, Gioia, povera Stella, insomma, con la mamma e la sorellina, si sono trovati in questa vicenda mostruosa e hanno perso la vita. Ecco, questo è il punto, che questa mamma è venuta a prendere, come tutti gli altri genitori, le proprie bambine, poi si sono soffermati presso il magazzino di uno zio e lì si sono poi rifugiate di corsa dentro a un portone e sono state travolte dall'onda insieme alle altre tre persone che erano entrate in quel portone. Insomma, erano una famiglia conosciuta, perché erano già 3 anni che la bambina frequentava, era in terza, quindi poi la mamma era stata... giusto, aveva avuto la bambina piccola, c'era stata la festa nella classe, delle cose insomma che sono ricordi assolutamente incancellabili. Se lei tornasse indietro, c'è qualcosa di più che farebbe per proteggere la sua scuola e per proteggere i suoi bambini? Guardi, io avrei chiuso le scuole se avessi saputo che si poteva chiudere, però noi sa che siamo tenuti a rimanere in quello che viene stabilito dalla prefettura e dal sindaco. Noi abbiamo eseguito ciò che è stato detto, perché alla mattina comunque non, effettivamente non c'era ragione per non far entrare i bambini. Quindi cosa posso dire? Io personalmente non avrei potuto fare niente di più. Certo, non ne ha le armi spuntate, non ha... No, se fossi stata in un'altra posizione avrei chiuso le scuole, questo è chiaro. Le scuole andavano assolutamente chiuse venerdì scorso, dunque, a detta di praticamente tutti i presidi genovesi che abbiamo contattato. Ne è convinta, come avete ascoltato, la preside di Gioia, così come Angela Autano, dirigente scolastica della scuola media Parini Merello, una scuola già invasa d'acqua e fango nel 1970 e nonostante questo ancora lì, affacciata sul fiume Bisagno che fa paura ad ogni pioggia a studenti e genitori. Un'altra scuola e un'altra preside finita in questi giorni al centro delle polemiche. Io particolarmente. Perché lei particolarmente? Ma perché poi chiaramente essendo una scuola così dove qualcuno è uscito, qualcuno no, ci sono fortunatamente non è successo nulla, tutti i nostri ragazzini stanno bene, però chiaramente le polemiche dell'aprire, chiudere, insomma comunicazioni di diverso genere, a volte poco chiare, possono esserci state, per cui siamo tra le scuole abbastanza, essendo nelle zone del Vadera Val Bisagno, quindi siamo chiaramente un po' così, come le posso dire, in mezzo anche a qualche... A tutte queste polemiche che sono anche sorte subito dopo le parole del sindaco Vincenzi, che insomma è stato piuttosto duro, no? Il sindaco molto. Con voi presidi. Però ha mandato il sindaco dopo la cosiddetta intervista di Repubblica, il sindaco ha mandato ai dirigenti scolastici. Potrei definirla, per quello che mi fa come dirigente scolastico, una smentita, diciamo che comunque è un discorso, una missiva in cui si dice che per ristabilire proprio anche i rapporti collaborativi che sono sempre stati fra l'ente locale e le istituzioni scolastiche, lei ci dice che le parole che sono emerse come virgolettate eccetera sulla intervista pubblicata da Repubblica, che lei avrà letto naturalmente, non corrispondono al vero, che lei non le ha mai pronunciate. Poi naturalmente insomma, però comunque lei ha detto certo. Che alle 11:30 aveva chiamato tutte le scuole. Assolutamente, guardi, io le posso dire, parlo per me, ma per altri colleghi con cui ci siamo sentiti, non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale di intanto meno alle 11:30. A parte la mia di scuola, telefoni fuori uso, server fuori uso, ma comunicazioni ufficiali che sono poi arrivate successivamente anche sul mio cellulare, comunicazioni, messaggi dall'ufficio politica educativa, ma comunicazioni ufficiali come risultano appunto anche da Repubblica, che alle 11 di mattina leggo la direzione scolastica ha contattato tutti i paesi interessati, ma 10 tra elementari e media hanno lasciato liberi gli studenti che hanno iniziato a chiamare i genitori, cioè qualcuno ha chiamato i genitori un po' per tranquillizzare, un po' perché non vedendo una grande criticità, siccome molti genitori andavano a prendersi autonomamente i ragazzi per loro sicurezza, anche chi rimaneva manifestava, sono ragazzini, manifestavano magari l'ansietà di rimanere, magari di voler tornare a casa, quindi che ci fossero tutte queste comunicazioni, mi dispiace dirlo, probabilmente sarà stato un difetto di comunicazione, lacune eccetera, però l'unica, diciamo così, comunicazione ufficiale che è comparsa anche sui media, canali nazionali, è una che dovrebbe in teoria, io non l'ho neanche ricevuta, essere arrivata alle 3:35 post meridiana. La famosa mail delle 15:35. Brava. Quando però era troppo tardi. Quando oramai, poi io le dico, noi ragazzi li abbiamo anche trattenuti, le ultime ragazzine sono state portate via alle ore 17 dalla protezione civile che le ha riaccompagnate a casa, perché erano posti da cui non si poteva certamente avere qualcuno che lo venisse a recuperare. Per cui credo che umanamente errori sicuramente, perché nella concitazione dei tempi, nel panico, nella massa di persone con cui ti trovi ad avere a che fare, sicuramente col senno di poi forse si sarebbero potute prendere altre decisioni. Signora, che cosa le resta di questa esperienza? Anche per il una futuro? Grande tristezza, augurandomi però che non ci sia più una prossima volta. Amarezza che si aggiunge ad amarezza. Amarezza. Io so che amarezza. La sua scuola, ovviamente lei non c'era, però aveva avuto danni anche nell'alluvione del 1970. Evidentemente quella scuola lì anche perché è in una posizione la critica. Mia è una scuola che si affaccia proprio diciamo sul torrente, cioè non è, però c'è la strada in mezzo, ma c'è la scuola, quindi questo è un dato di fatto. Credo benissimo che nel 70, con quell'esondazione così massiva, che io le dico, ricordo appena perché ero una ragazzina e ricordo di essere andata a spalare in altre zone, chiaramente è una scuola che poi è stata, la nostra è una scuola d'epoca, ma è stata completamente ristrutturata. Infatti, ma il problema non è l'edificio, il problema è la posizione, certo, evidentemente. No, certo, infatti le dico, l'edificio non ha subito poi, diciamo, anche altri allegamenti, eccetera, perché le ristrutturazioni, purtroppo la posizione è quella che è, concordo con lei, e quindi c'è da aver paura anche per il futuro? Speriamo di no. La seconda edizione di Italia in Controluce, siamo su Facebook, pagina, gruppo, Twitter, via mail controluceradio24.it. Torniamo lunedì alle 6.30 su Radio 24.